Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 9 di dicembre, quella che state ascoltando è la seconda puntata, seconda edizione di Italia in controluce, il programma quotidiano di Radio 24 sulle inchieste e sui reportage di cronaca, di politica, di società, spettacolo e costume. Oggi è venerdì ed è il giorno di Piera Ceci con Scuola in controluce. Scuola in controluce. Argomento delicatissimo quello di oggi, ma fondamentale se vogliamo che la nostra scuola migliori e migliori quindi la formazione dei nostri ragazzi. Parliamo infatti di valutazione degli insegnanti. Molti di voi ricorderanno quante polemiche suscitò un anno fa la decisione del Ministero della Pubblica Istruzione di dare il via ad una doppia sperimentazione. Una che individuasse le scuole migliori e le premiasse con un massimo di 70.000 euro. L'altra che individuasse e premiasse con una mensilità aggiuntiva gli insegnanti più bravi. Molti commentarono che era davvero ora, perché sappiamo tutti che nella nostra scuola ci sono i famosi insegnanti fannulloni su cui periodicamente si accendono i riflettori dei media, ma ci sono anche ottimi insegnanti che alla scuola danno veramente l'anima. I sindacati invece si lamentarono perché le modalità non erano corrette, dissero che giudicare gli insegnanti è una cosa positiva, ma non così. Molte scuole si tirarono insomma indietro, molte però non hanno avuto affatto paura di mettersi in gioco. La sperimentazione dunque alla fine c'è stata. E a questo punto possiamo dire che è stata anche un successo, almeno a leggere il rapporto stilato dalla Fondazione 3L e dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Entusiasti presidi coinvolti, come gli insegnanti premiati, vabbè, questo è abbastanza ovvio, ma anche quelli non premiati, perché a questo punto vogliono capire come migliorare. 33 le scuole coinvolte nella sperimentazione in Piemonte, Campania e provincia di Milano. In ognuna di queste il preside e due insegnanti hanno raccolto le candidature, anzi le autocandidature. Poi hanno sentito tutti gli altri attori del mondo della scuola, insegnanti, genitori e studenti. Da sottolineare peraltro che raramente questi ultimi due, cioè genitori e studenti, vengono interpellati per dare giudizi sugli insegnanti, dunque è davvero una rivoluzione. Conclusione, 1.000 i prof che si sono candidati, 300 gli insegnanti alla fine giudicati meritevoli e che hanno quindi ottenuto la famosa mensilità extra. Sentiamo dunque quali sono state le conclusioni del rapporto su questa sperimentazione da Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L. La cosa che è emersa con più chiarezza è che le scuole coinvolte erano fortemente interessate all'esperimento, perché per la prima volta, queste erano le loro prevalenti dichiarazioni, era stata messa al centro la professionalità di ognuno. Ognuno sapeva che era guardato e giudicato dai colleghi, dagli amici, dagli studenti, dalle famiglie. Solo questa attenzione nei loro confronti ha pagato fortemente. Si sono sentiti al centro e è stata anche un'occasione per autovalutarsi. E finalmente per riconoscere che nella scuola, come in ogni ambiente di lavoro peraltro, non tutti sono uguali. Certamente, ma l'obiettivo di questa, della filosofia di questa cosa, è di mettere in moto un meccanismo non di competizione selvaggia, bensì di emulazione. Ognuno ha un riferimento, si vede qual è l'insegnante più apprezzato dalle famiglie, dagli studenti, eccetera, e mi auguro si ispiri a quei comportamenti e a quello stile di insegnamento. Questo è l'obiettivo principale del metodo, cioè quello di mettere in moto non solo di premiare i primi 20, ma di mettere in moto un meccanismo che coinvolga anche gli insegnanti potenzialmente bravissimi, che con maggiore impegno o maggiore studio o con dei corsi di formazione ad hoc possono ambire a essere anche loro premiati. A questo punto come procedere? A questo punto cosa fare? Forti di una sperimentazione di un anno che ha avuto comunque successo. Dunque, noi siamo stati richiesti dal MIUR di dare anche delle raccomandazioni dopo questa valutazione che abbiamo fatto del tutto. La prima è di rifare questa sperimentazione con tutti i correttivi necessari su un numero più ampio di scuole per perfezionare tutto il meccanismo e tener conto dei consigli che ci sono stati dati. Poi ce n'è un'altra, le scuole lamentano molto il fatto che non basta premiare i migliori, bisogna anche restituire un'informazione a quelli che non sono stati premiati. Cioè i non premiati dicono: ma io perché non sono stato premiato? Cosa devo fare? Qual è il mio punto debole? Vorrei che qualcuno me lo dicesse. E hanno perfettamente ragione. Però questo va al di là del metodo Valorizza, che invece ha come obiettivo di premiare i migliori e basta. Noi raccomandiamo al Ministero di creare un fondo ad hoc, anche se i tempi sono difficili per creare i fondi, ma non ci vogliono cifre enormi, per quelli che vogliono fare dei corsi per migliorare la propria qualità professionale nelle scuole che adottano Valorizza. Ecco, sappiamo che gli stipendi dei nostri insegnanti sono molto bassi anche in confronto a quelli degli altri paesi europei, o perlomeno molti dei paesi europei. È un modo questo anche per dare una mano agli insegnanti e per non solo valorizzarne le competenze, ma anche per dare una mano dal punto di vista economico? Assolutamente sì. La terza raccomandazione che facciamo al Ministero è che per questo 20% di insegnanti che godono di generale apprezzamento si elevi il premio a 2 mensilità, non a 1, e lo si lasci per almeno 3 anni. E quindi chi a regime, questa è una raccomandazione che facciamo noi, il Ministero potrà accettarla o meno, il nostro suggerimento è che questo sistema potrebbe essere reso perenne, cioè a regime, ogni 3 anni la scuola fa questa valutazione dei propri insegnanti e chi il primo 20% prende 2 mensilità, non 1, e le prende per i 3 anni successivi, fino a che non si rifà di nuovo la valutazione della scuola. Quindi si va davanti e il Ministero della Pubblica Istruzione Profumo si è già detto convinto che la sperimentazione non deve fermarsi qui, perché la nostra scuola ha assolutamente bisogno di valutarsi e di conseguenza di valutare e premiare gli insegnanti migliori. Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, fondazione che peraltro ha avuto un ruolo attivo nella sperimentazione. L'obiettivo fondamentale è stato quello di provare a vedere se c'è un qualche sistema, diciamo non perfetto ma perfettibile, perché come sa ognuno ha pro e contro. Se c'è un sistema semplice che non costi eccessivamente, perché questo è un sistema che costa poco, può essere effettuato da ogni singola scuola una volta perfezionato il modello, se verrà perfezionato a costi zero sostanzialmente, e che dia un risultato, possiamo dire, quanto meno impreciso, quindi non il migliore, quanto meno impreciso, che risponda a una delle domande che ci sono state poste dall'Unione Europea nella famosa lettera dei 39 punti, e cioè come in Italia pensate di valorizzare la professionalità dei docenti e di premiare i migliori, di incentivare i migliori. Ecco, questa era la domanda. Io credo che questa sperimentazione, se sarà replicata, se sarà come dire modificata in meglio eccetera, è sicuramente una risposta possibile. Perché secondo lei è così importante che gli insegnanti migliori, gli insegnanti più bravi vengano in qualche modo premiati? Oggi se c'è un problema, oltre al fatto che gli insegnanti vengono pagati poco, come lei sa molto bene, cioè ci sono molti problemi oggi rispetto agli insegnanti, ma ce n'è uno che credo sia quello predominante, cioè gli insegnanti in qualche misura percepiscono in maniera sempre più rilevante che il loro ruolo sociale è molto diminuito e quindi c'è un problema sia ovviamente di incentivare e premiare economicamente, ma soprattutto c'è una questione che secondo me è ancora più fondamentale e basilare: restituire un ruolo sociale all'insegnamento. E restituire questo ruolo sociale passa anche attraverso un incentivo economico? Per forza, credo che proprio sia, come dire, impossibile non metterli insieme. Quale sarà l'argomentazione che pensate di usare nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione perché si convincano ad andare avanti con questa sperimentazione e magari ampliarla? Che è importante, cioè che è importante farlo perché abbiamo un ritardo colossale rispetto a tutti i paesi europei. Credo che siamo, mi pare di ricordare, ma credo di essere abbastanza precisa, ci sono solo 2 paesi europei che non hanno mai sperimentato modelli che servono appunto a individuare gli insegnanti migliori e a premiarli. quindi abbiamo un ritardo colossale da questo punto di vista. L'Unione Europea ce lo chiede, perché ce l'ha chiesto in questa ultima lettera, e che anche all'interno delle comunità scolastiche si avvino delle riflessioni non ideologiche ma basate su sperimentazioni, su acquisizioni. Io credo che sia importante per tutti, per migliorare in fondo il sistema scolastico. Avete ascoltato Italia Contro Luce, seconda edizione. Siamo su Facebook, la pagina del gruppo, siamo su Twitter e rintracciabili via mail controluceradio24.it. Torniamo lunedì alle 6.30 con nuove puntate, nuove inchieste, con la pillola di Italia Contro Luce legata ai temi di stretta attualità.